corpo, alcol in corpo, alcol in corpo. Hai l'aria di una che non chiede mai abbastanza. Sesso spinto, sesso spinto, sesso spinto, ma sento che stai cedendo. Ti vendo così, sai che tanto ti dà tanto. Sento che stai cedendo. Mi chiedo come fai, tu non sei stata mai. Non respira mai abbastanza. Fiocchi di neve, fiocchi di neve, fiocchi di neve. Hai l'aria di una che non prega mai abbastanza. Dio ti perdona, Dio ti perdona, Dio ti perdonerà. Sento che stai cedendo. Ti vendo così, sai che tanto ti dà tanto. Sento che stai cedendo. Mi chiedo come fai, tu non sei sazia mai. Sento che stai cedendo. Ti vendo così, sai che tanto ti dà tanto. Sento che stai cedendo. Mi chiedo come fai, tu non sei sazia mai.